siete danni. Non si può lasciar morire un uomo. Gli stenti. Come si può costringere una donna a vendere? Come quando governi a restare indifferente. Morire su una mondiale in mano di pochi, ma non si può rubare alla gente e dormire tranquilli, pensare